Capito Oh, corre al mar che se il cielo ha mandato espressamente per mio bene questo miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, aver che possediate segreti portentosi. Sorprendenti, l'uomo a soccorso e di Pandora in vaso. Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta? Oh, che cosa? Voglio dire lo stupendo elisir che d'est'amore. Oh, sì, sì, capisco, intendo, io ne so di stupore. E fia vero? Sì, se ne fa gran consumo, gran consumo in queste età. Fortuna, me ne vendete ogni giorno in mondo e con prezzo ne volete poco assai poco secondo un zecchino l'altro qua e la somma che ci va a prendere a vantare a prendere si può con riguardo al pianino la bottiglia un po' si scuote poi si scura sì, vada il vapor non se ne vada il vapor non se ne vada ben, quindi all'acqua l'officini ben, e la bevi accende il vino per effetto sorprendente non è tardi a conseguire per effetto sorprendente non è tardi a conseguire non è tardi non è tardi a conseguire sul momento a dire il vero necessario un giorno intero quanto tempo sufficiente per cavarmene fuggire il sapore eccellente eccellente eccellente Bordeaux non è di chi obbligato ho supplicato son felice son contento si è di la bontà benevento chi ti fa obbligato non obbligato son felice son mirato e mi si è di la bontà benevento chi ti fa obbligato Giovinotto, ehi, ehi, signore, sopra ciò, silenzio, sai, silenzio, silenzio, oggi ti spaccia il lavoro, è un affar geloso assai, sicuramente è un affar geloso assai, impazzarsene potria un tantin d'autorità, dunque silenzio, e non la sfederia, e anche un'altra, mortale fortunato, un tesoro t'ho donato, tutto sotto femminino, te torna a sorridere. Oh, mortale fortunato, un tesoro t'ho donato, tutto sotto femminino, te torna a sorridere. Atto e mi do parola, ti amerò per una sola, né per altra che sia più bella, né una sola spilla avvangerà. Thank you. Thank you. Almeno ricordati l'amor

ti scudi e ben salanti quanto adesso sei in momento che fardeggio e coi contenti gloria l'onore del reggimento ma non è ambizione che seduce questa tua l'amore in guarnigione non ti può mancare l'amore non ti può mancare amore anno dai perigli della guerra razio cangianti e abbandono e menzionanti ma so pur che far di questa altra strada me non resta per poter del Agitarsi a forzi piace con le viste filandiere, con le viste filandiere. Ah, chi un giorno tiene a dinare. Sempre lieto, sempre gaio, a di pelle un centinaio. Di costanza non s'annoia, non si perde a sospirare, non si perde a sospirare. La vita con la sua. Prendi a me la vera gioia, prendi a me la vera gioia. Prendi ad esemplar sì poi metto stato il mio rivale, anche questa è da contarsi, ho indagato il mio rivale. Anche questa è da contare, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contare, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contare. Non sai chi di mai ridotto ad alma solda al bardino, tu non sai Thank you.

troppo e troppo scaltra, io di me costretta, figlio di me costretta, figlio di me costretta. Sì, sì. Oh. quale accresce beltà l'amor nascente a far l'indifferente si seguiti così finché non viene ella a spiegarsi e morino e mire perché partire perché morte soldato hai risoluto perché perché ho voluto tentar secondo il mezzo il mio destino io potea migliorar la tua persona la tua vita ci è cara lo ricomprai in fatale contratto da bel cuore voi stessa naturale opera d'amore 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。